Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Trent'anni fa a Bruxelles, una notte di fine maggio che per molti aspetti cambiò la storia del calcio europeo. La rievochiamo oggi con Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Aizel, che in quella notte perse in questo stadio il papà Roberto e che in una notte in cui poi il nonno Otello conobbe la scomparsa del figlio, ma iniziò anche una lunga battaglia processuale con l'UEFA e che cambiò di fatto il volto del calcio europeo. Beh, Andrea, mi viene da dire che se oggi noi conosciamo la Champions League e quella musichetta che è ormai colonna sonora del calcio europeo, in qualche modo lo dobbiamo anche e soprattutto alla battaglia che Otello fece a partire da quella tragedia, vero? Senza dubbio rappresenta un punto di svolta, perché quel processo condanna l'UEFA come corresponsabile di ciò che accadde e da quel momento quindi la obbliga a attenersi a degli standard di sicurezza ben specifici, perché prima dell'Aizel la UEFA non era responsabile degli eventi che organizzava. Non a caso anche nel biglietto di quella finale c'è scritto che l'UEFA declina ogni responsabilità in caso di incidenti. L'UEFA incassava circa l'80-85% dell'incasso e appunto e declinava ogni responsabilità. Non a caso lo stadio Aizel a Bruxelles viene scelto perché è il più capiente, quindi non si tiene conto di quelli che possono essere situazioni di pericolo e di scarsa sicurezza, come poi appunto quello stadio si è rivelato essere. E quindi in un certo senso quel processo segna una svolta per quanto concerne l'organizzazione degli eventi sportivi. Oggi infatti le finali di Champions sono organizzate con determinati criteri, proprio perché dalla sentenza dell'Aizel del 1991 l'UEFA è responsabile degli eventi che organizza. Che effetto ti fa tornare a Bruxelles? Cosa vuol dire per te questa città? Beh, sicuramente sono sempre sensazioni contrastanti. È la terza volta che torno, ero già stato qua due volte nel 2005 quando fu inaugurata la Stele che è fuori nel piazzale dello stadio ex Aizel, che oggi si chiama Re Baldovino. È chiaro che quando uno va sotto quella curva, dietro quel muretto, sono sempre sensazioni particolari. C'è sempre un momento iniziale di stordimento, perché è chiaro, quello è un luogo che per noi familiari chiaramente ha cambiato la nostra vita. È un conto magari vedere a volte delle immagini anche di quella tragedia in televisione, un conto è trovarsi lì su quel posto. Sicuramente sono sempre emozioni molto forti. Aizel, che oggi è lo stadio Re Baldovino, di cui non conosciamo ancora il futuro, no? Stadio che dovrebbe essere abbattuto, trasferito qualche chilometro più là. Ecco, voi come associazione che garanzie avete ricevuto rispetto al fatto che, pur cambiando luogo, destinazione d'uso, sopravviva però la memoria di quello che è stato l'Aizel? Ma va detto che in questi 30 anni il Belgio ha sempre cercato di dimenticare, in tanti hanno cercato di dimenticare, ma anche il Belgio da questo punto di vista ha cercato di fare la sua parte. Qualche anno fa, quando è venuto fuori l'opportunità dell'abbattimento dell'attuale stadio, fu lanciata una petizione da alcuni tifosi juventini, che poi fu raccolta da tanti cittadini italiani ed europei, che fu indirizzata all'onorevole europarlamentare Antonio Tajani, che è stato colui che tra l'altro aveva contribuito a far erigere la Stele nel 2005, affinché anche se in quel luogo fosse stato costruito qualcosa di diverso, si parlava addirittura di un centro commerciale, comunque la Stele o comunque qualcosa che ricordasse quel luogo tragico fosse mantenuta. Fu preso l'impegno appunto di vigilare su questo. Io tra l'altro ho avuto anche occasione proprio in questi giorni a Bruxelles di incontrare nuovamente Tajani, ricordandogli anche questa situazione. Quindi lui comunque si è detto disponibile ad intercedere e a dare il proprio contributo. Si parla appunto dell'abbattimento di questo stadio, non se ne conoscono ancora i tempi, ormai se ne parla da qualche anno. Per noi chiaramente l'importante è che resti la memoria e faremo di tutto affinché questo avvenga. C'è anche una memoria opaca che prova a raccontare senza in realtà dire nulla di quello che è. Mi vengono in mente queste lapidi con la sola data di quello che fu la Isel, queste steli che per carità hanno ragione d'essere, ma che poi rimangono quasi criptiche, no? A chi non conosce quello che accadde quella sera. È vero, forse c'è tanta voglia di agevolare un po' l'oblio di quello che fu, no? Sì, perché questa è una tragedia scomoda, l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, perché è una tragedia che ha tanti responsabili, a cominciare dalla UEFA nella scelta di uno stadio fatiscente, nella gestione dei biglietti, perché nella curva Z non dovevano finire le famiglie italiane a stretto contatto con gli hooligans inglesi. Ci sono le responsabilità evidenti della polizia e del Ministero dell'Interno belga, che non riuscì a garantire in alcun modo la sicurezza. Basti pensare che nel momento in cui partono le cariche degli hooligans inglesi ci sono solo alcuni poliziotti, 3-5 non di più, a dividere i due settori. Poi chiaramente, oltre alle responsabilità dei tifosi inglesi, che però hanno potuto, come dire, agire indisturbati, ovviamente. Quindi e poi chiaramente, come dire, in questi anni si è sempre voluto, sia in Italia, in Belgio, ma in generale, dimenticare, proprio perché c'erano di mezzo troppe situazioni, troppe controparti scomode di questa tragedia. La Juventus in questi 30 anni comunque aveva sempre l'imbarazzo di questa coppa, che in qualche modo ha sempre sentito sua, e quindi questo ha contribuito affinché sia l'associazione guidata da mio nonno nei primi anni, ma poi anche negli anni successivi, a faticare nel fissare la memoria di questa tragedia. E questo poi porta anche ad avere scarsa conoscenza delle Isel, e questa ignoranza sfocia ancora oggi nel mancato rispetto di quella tragedia e di quelle vittime. C'è adesso una maglia che in qualche modo consacra questa memoria, una maglia azzurra, una maglia col numero 39, numero tragico perché 39 furono le vittime in quella sciagurata serata. Su vostra proposta la Federcalcio ha deciso di ritirare simbolicamente questa maglia azzurra. Nessun azzurro in futuro potrà mai vestire quel numero 39, così come succede con le maglie dei grandi campioni. Direi che è un momento anche di unità, no? Del calcio italiano nella memoria di quanto accadde. Senza dubbio è stato un momento molto importante, perché la Federcalcio, quindi la massima istituzione calcistica italiana e che rappresenta quindi il nostro paese per quanto riguarda il calcio, ha deciso di accogliere questa nostra proposta, che appunto è simbolica, ma porta dietro di sé comunque un qualcosa di concreto, soprattutto per quello che deve essere poi il futuro. Condividere e fissare la memoria ai massimi livelli, quindi con la Federcalcio, perché l'ignoranza di cui parlavo prima possa in un certo senso anche essere sconfitta. Negli stadi ancora oggi ci sono cori e striscioni che offendono la memoria delle vittime. E quindi ecco, mi auguro che la Federcalcio, adesso che ha deciso di condividere la memoria, comunque operare una riflessione insieme all'associazione, possa anche responsabilizzarsi e insieme, e quindi anche alla Procura federale, combattere in maniera severa, con sanzioni esemplari, coloro che negli stadi ancora oggi offendono non solo le vittime delle Isel, ma tutte le vittime e i morti del calcio. Qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio, colpo di testa di Brio, palla in fallo laterale, la Juventus vince la Coppa dei Campioni battendo per 1-0 il Liverpool. 30 anni fa a Bruxelles, una notte di fine maggio che per molti aspetti cambiò la storia del calcio europeo. La rievochiamo oggi con Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Aizel. Ecco, c'è tanto futuro nell'attività dell'associazione. In questi mesi, tra l'altro, in quest'ottica avete incontrato spesso gli studenti nelle scuole per raccontare cosa fu l'Aizel e costruire un percorso di crescita civica. Che cosa ne sanno oggi i ragazzi? Beh, è chiaro che ci sono vari livelli anche di conoscenza e consapevolezza di quella tragedia, e devo dire che quando però terminiamo questi incontri nei quali raccontiamo quello che è stato, insomma, leggiamo anche nei loro volti anche lo stupore nel rendersi conto di ciò che può portare la follia umana. Magari qualcuno di questa tragedia ne ha sentito parlare, o perché magari a volte ha guardato su internet, o magari quando via via magari ci possono essere stati dei momenti in cui se ne è parlato. Però ecco, un conto poi è spiegargli, raccontare quello che è stato l'Aizel, che l'Aizel non è ovviamente è la morte di 39 persone per gli attacchi dei tifosi, degli hooligans inglesi, lo schiacciamento, il muretto che cade, tutto quanto. Però c'è un contorno, ci sono delle cause, e si ritorna alle responsabilità che dicevo prima. Quindi l'esame è una cosa molto complicata, e i ragazzi, ecco, però al termine di questi incontri li troviamo molto molto consapevoli, e quindi noi proseguiremo con queste iniziative che però accompagniamo anche a dei progetti che vogliamo poi concretizzare. Non a caso noi ad ottobre abbiamo celebrato ad Arezzo un convegno a cui ha partecipato anche il presidente del CONI Malagò, nel quale abbiamo proposto un documento che ci auguriamo a breve di poter presentare anche al Ministero dell'Istruzione, per l'introduzione di ore di educazione civica allo sport, perché crediamo che i valori dello sport spiegati e insegnati ai ragazzi poi possono sicuramente essere ribaltati anche nella quotidianità di tutti i giorni. Allora magari ragazzi in età scolastica che riescono ad avere consapevolezza di questi principi, probabilmente in futuro potremo avere meno striscioni e meno cori, e quindi un rispetto quando si va a tifare una squadra in uno stadio. Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione delle Vittime dei Familiari dell'Aizel, oggi ospite di Olimpia. Su quella tribuna, in quel settore Z, hai perso Roberto, tuo papà. Ti chiedo, cos'è oggi il calcio per te? Beh, sicuramente il calcio fa parte della mia vita, anche perché io sono un giornalista, mi occupo anche di sport e quindi seguo anche il calcio, ma il calcio ovviamente ha quei valori di cui parlavo prima, deve proporre, quindi chiaramente della partita a me interessa seguire e raccontare non solo i gesti atletici, anche lo spettacolo che c'è in campo, l'emozione, le storie che ci sono anche dietro degli atleti. Io credo che il calcio possa essere un veicolo importante di aggregazione sociale, ovviamente partendo dai ragazzi, dalle scuole calcio. All'Aizel è stato tutto il contrario, ma in realtà non è tanto il calcio in sé, è stato una serie di negligenze e responsabilità a monte che hanno provocato quella tragedia. Quindi quella è una, come dice il collega Francesco Aremani nel suo libro, Aizel, le verità di una strage annunciata. In realtà ecco, lì si sono create delle situazioni che esulano dall'aspetto proprio sportivo in sé. Quindi io anche da ragazzo ho praticato calcio, e credo che fatto nella maniera giusta sia per un ragazzo anche un motivo di crescita e di maturazione. C'è sempre una zona grigia, no? in queste situazioni drammatiche. Hai mai pensato, ma se non ci fosse stata questa passione calcistica per quei colori bianco-neri, non ci fosse stata questo desiderio di prendere quei biglietti, forse staremmo qui a raccontare un altro destino? In qualche modo la passione è anche schiavitù, no? Come fai a conciliare questo amore per il gioco con quanto è accaduto? Ma sai, con i se e con i ma non si fa la storia. Io credo che ogni persona debba inseguire la propria passione. Io credo che mio padre, le altre famiglie, che gli altri tifosi appassionati di calcio, perché in quella curva non c'erano solo tifosi juventini, bisogna ricordarlo, c'erano anche tifosi tra le vittime, anche dei tifosi interisti, ma c'era per esempio mio nonno che era un tifoso della Fiorentina, ma era andato a Bruxelles per accompagnare mio padre per passare un paio di giorni in una capitale europea. Quindi era vissuto come deve essere vissuto un momento sportivo, un momento ludico, anche di aggregazione, un'occasione per fare un viaggio. Quindi credo che tutti debbano inseguire le proprie passioni, insomma, ecco. Quello che, come dire, non è concepibile è che queste persone per inseguire una passione si sono ritrovate di fatto in una trappola dalla quale loro ne erano totalmente inconsapevoli, e quindi di fatto erano andati ad un massacro senza saperlo per colpe altrui. Pensi che queste iniziative promosse in occasione di questo Italia-Belgio riusciranno finalmente a far sì che quelle vittime siano un patrimonio comune dello sport e del calcio italiano? Io me lo auguro, chiaramente questo è un primo passo, siamo e sono consapevole che sarà comunque una battaglia ancora lunga. Cambiare un modo di pensare, una cultura, non è sicuramente semplice e ci vorrà del tempo, ovviamente. Questo è lo sforzo che noi anche come associazione vogliamo fare, proprio per evitare che negli stadi poi ci siano quei cori. Ma questo vale quando la Juventus va a giocare contro magari delle altre squadre sue rivali, e allo stesso tempo quando magari dalla parte opposta si offende la tragedia di Superga piuttosto che la memoria di Facchetti o di Paparelli piuttosto che di altre vittime. Per le vittime, per le morti ci deve essere soltanto rispetto, e proprio perché le vittime, tornando alle Isel, non sono mai state patrimonio comune ma vissute magari solo come patrimonio di una sola parte, allora ecco che gli altri ne approfittavano quasi per, come dire, voler mostrare lo scalpo del nemico, ed invece qua di nemici non c'è nessuno, ci deve essere soltanto una sana rivalità, ma che deve assolutamente esulare da altro, e il rispetto per chi oggi non c'è più deve essere assolutamente una priorità. Quindi mi auguro che questa due giorni a Bruxelles rappresenti un punto di partenza, e noi ovviamente come associazione vigileremo e continueremo nella nostra battaglia. In qualche modo anche questa vostra progettualità è spiazzante e piacevolmente sorprendente, no? Ma io credo che quando io ho mandato una lettera a tutti i familiari proponendo di ricostituire l'associazione, l'ho fatto spiegando che tanti anni dopo quella tragedia noi dobbiamo, come dire, dare un valore a quella memoria, e quindi per farlo bisogna guardare avanti. Ricordare basta rischia di rimanere un qualcosa fino a se stessa, e magari, come dire, di incontrare su questo percorso anche l'ipocrisia di tanta gente che magari dice una parola in più, una parola bella per, come dire, pulirsi la coscienza. Ed invece, partendo da quella memoria, lavorare sul futuro, ma soprattutto per dare anche un senso al sacrificio dei nostri familiari, chiaramente morti che non hanno, come dire, logica, perché non si può morire per andare a vedere una partita di calcio, ma proprio per questo investire sui ragazzi, partendo dalla memoria di quella tragedia, ci permette di poter dare il nostro contributo a costruire magari una società migliore un domani. Andrea Lorentini, in bocca al lupo per questa nuova sfida, per questo nuovo percorso, e grazie per essere stato oggi qui a Bruxelles ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi.